Storiacce di Raffaella Calandra. Quali sono i livelli della massoneria oggi? Per riprendere una domanda che tanto tempo fa dai divani di Villa Wanda rivolsi a Licio Gelli, che della famigerata loggia massonica P2 fu maestro venerabile, quanto pesano ancora oggi i grembiuli, compassi e fratelli? Una domanda che la Commissione parlamentare antimafia si sta ponendo rispetto a Calabria e Sicilia, dove delle inchieste hanno allungato quantomeno delle ombre tra ambienti criminali e massoni deviati, diciamo così, anche nel favoreggiamento della latitanza del più celebre superboss di Cosa Nostra o nel controllo di fette di potere. Ed è allora in quest'area grigia di silenzi, segreti e reciproci interessi che proviamo ad entrare in questa puntata di Storiacce. Ma per voi cosa rappresenta la massoneria? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter seguendoci all'account Raf Calandra. Stefano Bisi, gran maestro della loggia del Grand Oriente d'Italia, la principale loggia massonica italiana. La Commissione parlamentare antimafia vi aveva più volte invitato a consegnare gli elenchi degli iscritti alle logge in Calabria e in Sicilia. Alla fine questi sono stati sequestrati. Partiamo da qui. Per quale ragione non volevate consegnarli? Ribalto la domanda. Perché dovremmo consegnare gli elenchi degli iscritti? Non si chiedono gli iscritti ad un'associazione, che sia il Grand Oriente d'Italia, che sia l'ARCI, un sindacato, un l'Opus Dei, la pubblica assistenza. Perché dovremmo consegnare l'elenco degli iscritti? Che ad esempio inchieste in corso svelano contatti tra iscritti alla massoneria e clan criminali, o ancora perché ad esempio arrivano fino a logge cosiddette deviate, cioè al di fuori delle regole, inchieste pure su latitanze celeberrime come quella del superboss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, o ancora sull'inquinamento della pubblica amministrazione in Calabria. Ed è anche per tutto questo che la Commissione parlamentare antimafia ha mandato alla fine la Guardia di Finanza nelle sedi del Grande Oriente d'Italia, della Gran Loggia Regionale d'Italia, la Serenissima Gran Loggia, la Gran Loggia degli Antichi Liberi Accettati Muratori. Obiettivo: acquisire gli elenchi degli iscritti dal 1990 ad oggi in Calabria e Sicilia. Una decisione che fa infuriare il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, ma che vista da Palazzo San Macuto era necessaria, ribatte il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava. La Commissione Antimafia si è mossa con i poteri che sono previsti dalla legge ordinaria e dalla Costituzione e ha chiesto più volte, offrendo diverse date di consegna spostate in avanti, ai gran maestri delle obbedienze massoniche a cui ci siamo rivolti di accedere agli elenchi degli iscritti, e avendo avuto risposta sempre dilatoria o negativa, alla fine siamo ricorsi a poteri che la legge prescrive e prevede per la Commissione Antimafia, sono gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, quindi procedere a una perquisizione e a un sequestro. Naturalmente con l'obbligo e la garanzia di riservatezza, questi elenchi sono a disposizione della Commissione e dei suoi esperti, senza nessuna preoccupazione, che era ciò che si agitava, della possibilità che questi elenchi vengano resi pubblici, ma erano indispensabili per il lavoro istruttorio che la Commissione è chiamata a fare, anche alla luce delle inchieste giudiziarie in corso a Palermo, a Trapani, ad Agrigento, a Catania, a Reggio Calabria, e che riguardano punti di contatto pericolosi tra alcune logge massoniche, alcune obbedienze massoniche e 'Ndrangheta e Cosa Nostra. E questo è il punto centrale della ragione per cui la Commissione Antimafia si è appunto occupata delle logge massoniche. Una volta che avete acquisito questi elenchi, qual è il vostro compito ora? Si stanno valutando gli elenchi alla luce anche delle indicazioni che sono arrivate dalle inchieste giudiziarie in corso, alla luce delle indicazioni e segnalazioni della Prefettura, alla luce di tutte le altre indicazioni di contesto, per capire questa sovrapposizione tra ambienti massonici e ambienti criminali sia un fatto isolato, se abbia una situazione più sistemica. A Castelvetrano, che è il paese di origine di Matteo Messina Denaro, soltanto, ma anche un paese in cui Messina Denaro ha costruito un sistema di relazioni private, pubbliche, politiche e criminali, che non solo ha garantito la sua latitanza, ma anche una cornice di forte consenso attorno a lui. E se tutto questo coincide stranamente con un tasso incredibilmente alto di diffusione delle logge massoniche nella città di Castelvetrano, con una presenza di massoni in consiglio comunale raggiunta straordinariamente alta, assolutamente patologica, con un fenomeno che si allarga in tutta la provincia di Trapani, e avendo nella provincia di Trapani riscontri di logge massoniche che erano diventati ricettacolo di affaristi, di mafiosi e di membri delle istituzioni come la loggia Scontrino, è chiaro che ci sono una serie di domande e di valutazioni e di indagini che la Commissione Antimafia, con i mezzi che possiede, è tenuta a fare. Sono delle spie il fatto che in alcune zone che sono notoriamente ad alta densità mafiosa ci sia anche un alto numero di iscritti ad alcune logge, giusto? Sì, sono degli indizi che fanno capire come alcuni ambienti si siano prestati meglio di altri a garantire reciproche impunità. Alla fine il problema non è tanto la massoneria, non credo che i mafiosi che in passato entravano a far parte di logge massoniche, da Stefano Bontade fino, dicono i magistrati, a Matteo Messina Denaro, lo facciano per ideali repubblicani mazziniani. Diciamo un contesto che si presta, nella sua riservatezza, nel suo vincolo di reciproca solidarietà, ad essere una camera di compensazione di interessi, di protezione, di impunità, altrimenti non si capirebbe per quale ragione in alcune logge coperte, logge della cui esistenza non erano al corrente nemmeno i Gran Maestri dell'Obbedienza Massonica, si incontrassero esponenti delle istituzioni, imprenditori, politici e capimafia. Cosa avessero in comune se non la necessità di avere una camera di compensazione in cui interessi innominabili potevano trovare una loro saldatura? Di 850 in tutta Italia, 94 sono le logge esistenti in Sicilia. La più antica è l'Alghieri a Palermo, e invece è intestata a Francisco Ferrer quella di Castelvetrano nel Trapanese, una su cui il Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia è stato interrogato anche in Commissione Antimafia a proposito proprio della latitanza di Messina Denaro, come lui stesso ricorda ora con storiacce. Quando mi è stato chiesto di Castelvetrano, dove c'è una loggia del Grande Oriente d'Italia che ha sul portone della propria sede un cartello, e sono neppure 30 gli appartenenti alla nostra loggia Ferrer di Castelvetrano, quando mi è stato detto in Commissione Antimafia: ma voi che fareste per la cattura del superlatitante, visto che il capogruppo del PD in Consiglio Comunale ha detto che darebbe la vita? Io ho risposto, ho detto: darei la vita per la cattura del superlatitante. Il potere delle cosche sta proprio, diciamo, nel poter contare in una serie di rapporti variegati e ampi possibili. Il tema è se l'iscrizione legittima in partenza a delle logge possa essere utilizzata per fini personali e di singole consorterie. Facciamo un controllo alla nascita di un uomo come Fratello Libero Muratore, con la presentazione del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti, e poi di un controllo che strada facendo viene fatto su ogni fratello. Mi pare per iscriversi a un partito tutte queste certificazioni non vengono richieste. C'è una sorta di stigma nei vostri confronti? Sicuramente la P2 ha fatto dei danni al Grande Oriente d'Italia enormi, ma viene anche da più lontano. Probabilmente quella breccia del 20 settembre 1870, la breccia di Porta Pia, non a tutti è piaciuta. Io capisco, comprendo, però non giustifico questo atteggiamento duro, aggressivo nei confronti della libera muratoria del Grande Oriente d'Italia. Noi abbiamo pagato e paghiamo per i nostri errori, però la criminalizzazione di un'intera associazione non ci piace ed è pericolosa. Ricordo quello che disse Antonio Gramsci nel suo unico intervento che fece in Parlamento, e lui non era massone. Ora i nomi delle migliaia di iscritti delle logge in Sicilia e Calabria sono al vaglio della Commissione parlamentare antimafia, che poi traccerà il suo quadro conclusivo. In Calabria, in alcuni casi, il contatto o talvolta la coincidenza tra affiliati all''Ndrangheta e fratelli di loggia ha rappresentato un salto di qualità della malavita organizzata. E da qui partiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Oggi mi pare a me l'età c'è da grande vecchio. Per la mia venerabile età avrei anche ancora qualcosa da indicare, ma io ho finito l'inchiostro. C'è ancora la fila per venire a parlare da lei? No, di amici ce ne sono tanti, ma non c'è più la fila perché fra l'altro non c'è più gente. Il maestro venerabile della famigerata loggia P2, Propaganda 2, se n'è andato. Ma nell'immaginario collettivo, in prima battuta, va soprattutto a lui il pensiero ogni volta che si parli di logge, massoni, fratelli e compassi. Una loggia, quella della P2, che era parte del Grande Oriente d'Italia e di cui forse ancora subiamo lo stigma, dice a Storiacce Stefano Bisi, che dei massoni italiani è oggi il gran maestro. Oggi che dopo un lungo braccio di ferro con la Commissione Antimafia è stata mandata la Guardia di Finanza a sequestrare gli elenchi dei loro iscritti in Calabria e Sicilia, come avete sentito già nella prima parte di Storiacce. Queste non sono le regioni col più alto numero di iscritti, resta la Toscana in testa, ma le due regioni più a sud del paese possono comunque vantarne 94 di logge in Sicilia, 75 in Calabria. Ma non è il numero delle logge ad interessare Palazzo San Macuto. Iscriversi alla massoneria, è bene ribadirlo con forza e con chiarezza, è assolutamente cosa lecita, ed è per questo che dal Grande Oriente continuano a protestare per la decisione di acquisire tutti i nominativi. Ad interessare invece la Commissione Antimafia sono i presunti contatti tra ambienti massonici e quelli criminali. Sono gli indizi arrivati da inchieste in corso sulla copertura del superboss Matteo Messina Denaro nel Trapanese, come avete sentito nella prima parte, e ci sono ancora indagini sul potere dell''Ndrangheta, perché quello della massoneria deviata, ci ha detto il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, è uno snodo fondamentale per capire il grande potere delle cosche. Questa della massoneria deviata è uno degli snodi per capire perché oggi l''Ndrangheta è la mafia più potente, più ricca che c'è quantomeno in Italia. Perché nel 1969, nel famoso summit di Montalto, è una riunione che avviene ogni anno, si è discusso dell'unitarietà dell''Ndrangheta. La creazione della santa, la prima dote della città maggiore. Qual è l'importanza della rivoluzione santista? Che poteva far parte dell''Ndrangheta e della massoneria deviata, cioè poteva avere la doppia affiliazione. Questa è stata una grande rivoluzione, perché consentire ad un 'ndranghetista di partecipare ad una riunione di loggia massonica deviata voleva dire avere a che fare con medici, ingegneri, avvocati. Anzi, un collaboratore di giustizia ci ha spiegato come c'erano 3 incappucciati in questi tempi e tra gli incappucciati c'erano anche dei magistrati. Dalle coordinate storiche ad una spiegazione assai semplice del perché l''Ndrangheta in Calabria abbia cercato una saldatura con pezzi della massoneria, perché questo permetteva a singoli affiliati di poter entrare nel cuore della pubblica amministrazione, quindi nelle stanze del potere. Ma chi sono gli iscritti alle logge? C'è un po' di tutto, tranne i magistrati, a cui è stato ufficialmente proibita l'iscrizione alla massoneria. Ma come sentiremo direttamente dal Gran Maestro del Grande Oriente, bisogna comunque ancora essere presentati e introdotti da un fratello per essere considerati iscritti ad una loggia. E se all'epoca della P2 di Licio Gelli lo scandalo assunse quelle dimensioni anche per la partecipazione di alti vertici delle istituzioni, delle forze dell'ordine, dei servizi segreti, della magistratura, della politica, comunque anche oggi, almeno in una regione come la Calabria, la massoneria fa entrare in contatto, a detta del procuratore Gratteri, col cuore della pubblica amministrazione. Far parte della santa voleva dire avere contatti con i quadri della pubblica amministrazione, avere contatti con il potere reale e quindi non stare più ad accontentarsi del nulla freddo, del nulla caldo, del trasporto di inerti, delle guardianie, ma entrare nella stanza dei bottoni, interagire col potere reale e decidere non solo chi deve vincere l'appalto, ma l'opera, se deve essere costruita e dove deve essere costruita. Grande salto di qualità della 'ndrangheta. Il caso della massoneria calabrese, d'altra parte, arrivò fino al duca di Kent, che è al vertice della massoneria inglese e quindi della vera massoneria, perché in Calabria la presenza dell''ndrangheta all'interno delle cosche è da anni ormai un caso, indipendentemente dalle inchieste ora in corso e dal lavoro attualmente in corso nella Commissione parlamentare antimafia. Sentito infatti dal PM di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, fu l'ex maestro del Grande Oriente d'Italia a riferire quanto un suo gli aveva già detto nel 93, ossia che su 32 logge in Calabria ben 28 erano controllate dall''ndrangheta. Io, fece mettere a verbale Di Bernardo, saltai dalla sedia. E ora qual è la situazione? Stefano Bisi, che è al momento alla guida della principale istituzione massonica italiana, sta, a dire il vero, portando avanti un'opera di trasparenza e il sito ne è una dimostrazione, ma non dovrebbe essere appunto anche loro interesse far emergere eventuali connivenze opache tra logge e cosche? Certo che è nostro interesse, facciamo dei controlli, se ci dicono il nome di un personaggio che loro ritengono in odor di mafia, noi rispondiamo e se è un iscritto prendiamo immediatamente provvedimenti. Ma chiedo io, forse sono stati chiesti gli elenchi di tutti i chierichetti della Calabria, visto che c'è un sacerdote della Chiesa cattolica tra coloro che sono stati rinviati a giudizio in un'inchiesta di Reggio Calabria? Esiste secondo voi anche un tema se ci siano delle realtà dove l'iscrizione possa essere utilizzata in alcuni territori anche per fini non leciti? Ma questo chi ha il potere di indagare indaghi, ma il Gran Maestro, gli ispettori, i presidenti dei collegi regionali del Grande Oriente d'Italia non sono pubblici ministeri, però i provvedimenti della Commissione parlamentare di inchiesta non possono essere impugnati. Mi chiedevo se non esista secondo voi anche un tema sulla possibilità, il rischio che in alcune realtà la rete massonica possa essere utilizzata per scopi illeciti da parte di alcune ristrette consorterie. I nostri controlli sono approfonditi, però se i magistrati, che hanno ovviamente e giustamente il potere di verificare e di esercitare, è giusto che facciano la loro azione. Vorrei ricordare che dei 70 indagati di un'inchiesta che ha riunito più filoni di inchiesta a Reggio Calabria, di iscritti al Grande Oriente d'Italia ce n'era uno ed uno solo. In compenso però dall'altra parte ci sono state anche racconti, parlano di 28 su 32 logge in Calabria e diceva 28 su 32 sono a vario modo controllate dall''ndrangheta. Ma questo l'ha detto l'allora Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia Giuliano Di Bernardo, che scappò, e l'ha detto riferendosi a quello che avrebbe detto un Gran Maestro aggiunto, un altro membro della giunta del Grande Oriente d'Italia di quel tempo, Ettore Loizzo di Cosenza. Queste cose purtroppo non le può confermare Ettore Loizzo perché è morto, ma in un libro che lui ha scritto ha detto che quello che aveva pronunciato Di Bernardo era assolutamente non vero. Quindi indaghiamo tutti assieme, ma non mettendo sul banco degli accusati un'associazione intera. Che tipo di controlli potreste fare in vostro potere? Ma intanto facciamo un controllo alla nascita di un uomo come Fratello Libero Muratore, con la presentazione del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti, e poi di un controllo che strada facendo viene fatto su ogni fratello. Ripeto, però non siamo né pubblici ministeri né ufficiali delle forze dell'ordine. Certo, conoscendo le dinamiche mafiose che poggiano sulle relazioni, sui contatti, concorderà che aver la possibilità di poter contattare professionisti, politici, a volte anche forze dell'ordine, in un contesto così di segretezza sia un'occasione ghiotta per chi abbia, diciamo, affari da tenere segreti. Concorda? No, contesto il discorso della segretezza. Il Grande Oriente d'Italia non è né associazione segreta e non è neppure riservata. Non è segreta perché sono noti i suoi dirigenti, sono noti i suoi scopi. Anche in questo caso però nulla di particolarmente nuovo sotto il cielo della storia. Già nell'antichità infatti esisteva qualcosa di analogo alla massoneria, come ci racconta Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Nel 1751 l'allora Papa Benedetto XIV promulga una bolla contro la massoneria, condanna quelle società, riunioni, adunanze, conventicole comunemente chiamate dei liberi muratori. Chi partecipa alle riunioni segrete della massoneria non può essere uomo per bene e sicuramente nasconde qualche depravazione. Per dar forza alle sue affermazioni, il Papa cita i detti di alcuni antichi scrittori cristiani come Minucio Felice, che sosteneva: le cose oneste amano la luce del sole, solo le infamità sono segrete. Ma anche autori pagani come Plinio il Giovane, che in una sua lettera scriveva all'imperatore Traiano di avere proibito, secondo il suo ordine, le riunioni di tutte le associazioni segrete. Plinio usa un termine greco, eterie. Con questa parola già nell'antica Atene si indicavano i gruppi di aristocratici che si riunivano in segreto per complottare contro la democrazia, perché le associazioni segrete o molto riservate hanno una lunga storia. Gli stessi massoni citano a volte tra i loro antenati illustri certe sette dell'antichità, come quella dei seguaci di Pitagora, i pitagorici, che furono certo una società di mistici e di filosofi, una comunità di iniziati che coltivava un sapere esoterico, ma furono anche un potentissimo gruppo di pressione politica nelle città della Magna Grecia, come per esempio Crotone. Purtroppo capita da millenni che i profani si interroghino sulle vere finalità di certe associazioni segrete o molto riservate, e capita che qualcuno coltivi il dubbio che certe fratellanze di iniziati, più che alle cose dello spirito, siano interessate alle cose terrene. Ma per voi cosa rappresenta la massoneria? Vi iscrivereste? Scriveteci, se vi va, sulla pagina Facebook di Storiacce, oppure su Twitter ci seguite all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, compresa quella d'archivio con Licio Gelli che abbiamo evocato, il sito è radio24.it. Ciao a tutti da Raffaella Calandra in studio e da Paolo Corleoni in regia.